là? Sono me, sono me. Ti avevo riconosciuto. Inconfondibile. Lo stacco del microfono. Ehi, quando uso questo, quando uso il baracchino. Quando uso il baracchino già è uguale agli altri. Vabbè, te le fa attendere. Ehi, dai, stavo cantando sino adesso mi rilascio un po'. Vorrei cantare? Molto bene, molto bene. Andave, via. Almeno. Un po' mi distrago, quando canto mi piace perché stacco la spina. E io fuori al sole, prendiamo un po' di sole. C'ho venuto a rialzarlo, c'è un bel sole, sotto la veranda ci sta da Dio. C'è molto caldo, c'è un pericolo. Da ieri ha cominciato questo caldo qua. E adesso mi sa che dobbiamo adattarci a metterci maglietta, maniche corte, perché non si sa mai come vestirsi. Se ti vesti troppo leggero ti vedi di baranni, se ti vesti più pesante c'è caldo. Non lo so, comunque c'è caldo, si sta bene. E adesso vieni, bisogna andare al mare a pescare. Adesso in questi giorni mi sa che mi decido, mi prendo la gandria, mi metto in riva, mi faccio qualche lancio con l'artificiale. Ma infatti non ho capito perché non ci stai andando a pescare. Vabbè. Sicuramente non hai rana in questi giorni. No, è che praticamente mi è venuto questo dolore al femore, all'altro, non quello che mi hanno operato, e non riuscivo a stare manco in piedi, ma mi faceva di un male, guarda, meno male doveva essere qualche, non ti posso dire, un'infiammazione al muscolo, perché come ho preso le pastiglie antidolorifiche, per 2 giorni mi è passato, capito? Ah, già, perché siamo vecchietti già, io ho avuto dolore, sto facendo la cura per altri traumatoidi, figurati tu. E acido ianurulico, quello lì dice che fa bene, acido ianurulico, iniezioni. Io sto prendendo in bustine, 38 euro, 32 bustine, sembra che stia facendo bene. Oh, ma bustine che cos'è, qualche integratore o che cosa? Sì, è un integratore proprio a base di quello, specifico per artrite, reumatismi, tutte queste cose, capite? Io ho la oxartrosi, è praticamente mancanza di calcio nelle ossa, la membrana che copre le ossa consumate. Io non c'ho più cartilagine, quindi il problema è quello. Metterebbe lì. Gai est, vabbè. Vediamo se ci rimettiamo. Una succiata tutti voci, sono grazie al travaglio, Per che cosa, bannuda. E a te giù, a me no. A me me l'ha truncato di brutto. Io ho dovuto fare anche l'operazione, già lo sai. Per camminare di nuovo, perché non riuscivo più a camminare. Grazie a Dio ho ripreso al 100% con la gamba. Però adesso mi stava dando fastidio l'altra, capito? Io tutte e due ce le ho, proprio all'altezza del ginocchio, capito? Tutte e due. Infatti ero un mese intenzionato per l'operazione, poi invece abbiamo scoperto questa cosa e adesso stiamo andando avanti. Allora, Clara, io ho parlato con un dottore, perché a me mi avevano dato delle bustine che praticamente formano la cartilagine. Per le ginocchia può andar bene, ma per il femore no, perché il femore è l'osso più lungo del nostro corpo. Quindi riformarci lì la cartilagine è un problema, mentre invece nel ginocchio è un osso più piccolo e riesce a formarsi. Infatti così mi ha detto l'ortopedico, devo avere un po' di pazienza. Prima dolori allucinanti, adesso con queste bustine dolori non ne ho più, sto iniziando a camminare meglio, anche perché io ho una fascite plantare, capito, molto molto brutta, causata dalle scarpe antifortunistiche, e in più mi hanno riscontrato l'artrite, quindi è un casino, c'è già qualche dito del piede che è deformato, ho capito, le dita delle mani sono ancora così e così, però sto iniziando la cura, ogni venerdì faccio la puntura, ogni settimana, capito? In più tutti i santi giorni devo prendere una pastiglia. E anche a me un dito del piede mi si è deformato e è diventato secco, lo si vuole. Non è tutto va ridotto, ma ragione con tuo colpo e mazzetta. No, beh. Un casino è già. Vabbè, lavoro alle intemperie, all'acqua, al freddo, al gelo, cosa fai? Purtroppo ho fatto un po' di anni, un bel po' di anni anche in ufficio, ma poi mi stavo esaurendo a stare rinchiuso, ho accettato di uscire fuori e mi sono ammalato. Quello è l'artrosi deformante, quello che ti fa piegare le dita così, alla visione. Sì, si è messo sotto l'altro dito a me, mi si è messo sotto e l'altro sopra risulta, è girato verso destra. E mia sinistra, così usciamo assieme. E fermo me mia dopo. E di lui non ne vemmo uno. Di lui ne vemmo uno. Da un periodo ci facciamo due risate perché mi avevo ingessato il mezzo gamboletto destro e il mio collega mezzo sinistro, usciamo in pari tutti e lì facciamo le ricche. Ma andiamo avanti, cosa si deve fare? C'è gente che sta peggio qua, bisogna sopportare e conviverci con i mali, dove devi fare? E cosa fai? Purtroppo è così e basta, non è che devi far così, pazienza. No, vediamo. Allora c'è nessuno in radio, tutti morti sono. Ma io ho acceso adesso, perché stavo finendo di cantare. Io ho acceso adesso in questo preciso momento, ho sentito a te, dai. Non so se c'era altra gente prima, perché non ho acceso prima. Sto facendo andare un po' questo inket, che da molto che non lo usavo più, adesso poi la prossima tocca a scaldare un po' il 3009. Usalo tranquillo che va bene, io sto andando col 140, che uno è sempre spento, e qua avanti più di tutto, e vado solo con una radio, infatti sto andando col 140 che fa molto molto bene. Ma qual è quello di Pinocchetto questo? Sì, questo era il mio, l'avevo venduto a Pinocchetto, poi me lo sono ripreso. Non avevo nessuna intenzione, ma mi sembra che l'avevo letto, ma l'ho portato per cambiare la batteria al litio. Non manteneva più le memorie perché era sempre buttato dentro l'armadio. Gli ho messo la batteria al litio, l'ho tutta rimemorizzata. Ah, ho telefonato, la radio è pronta. E Nachi, vieni a tu, vieni a tu. Non ne voglio io, va, pigliati la radio. No, cosa faccio? Vai lì, poi non ne uso, ma a scoffanacco, vieni a prendere i soldi, allora io. Ce l'ho venduta così. Ma sono ritirata di nuovo, già era la mia, gliel'avevo venduta io, capito? Ma sono ritirata di nuovo, visto che era la mia, nuova, la conosco, è perfetta. Quindi Pinocchetto non sta più entrando? No, dalla macchina ogni tanto, dalla macchina, lo sentiamo sempre al telefono. E c'è roba sua qua che sta vendendo, l'ho letto, c'è un bel lineare, nuovo, c'è un Uranus da vendere, però non riesco a vendergliela, la Giudizio, cioè non c'è più nessuno come prima che compra baracchini, no? Vabbè, adesso vediamo stasera se entra Franco. E questi mi sono tutti arrivati finalmente. Oh, ma te lo sta già mettendo a posto, ci sta già lavorando? Ehi. Vabbè, meglio così, già, così ti risento. Col Galaxy mettile un microfono, lasciale quello, capito? Andavi molto bene anche col, vabbè, tra venduto l'MB più 5, però andavi molto molto bene con quello, eh? No, io usavo sempre il coso, e tu sei fissato con l'MP5, non ne ho l'MP5, ma sai da quando è che l'ho dato io con l'MP5? Avevamo fatto lo scambio con Stefano, gli avevo dato l'MP5 e lui mi ha dato il Saletta Master. Io pensavo che era sempre l'MP5, però non farla spingere molto, già non farla spingere molto, capito? Piano piano, infatti, lasciali sui senza toccare, senza niente, perché ne risente moltissimo al finale, me me l'avevano detto, infatti la mia c'ha 10 watt come dalla casa al massima potenza e 4 watt e mezzo alla minima potenza, quasi 5 watt, e va benissimo. Le posso attaccare un legnaretto, abbasso tutta la potenza, 4 watt e mezzo, le attaccavo il 747, adesso il 747 è dentro, e la regolazione la puoi fare normale con la potenza della radio oppure la potenza minima con l'amplificatore inserito. Io lo sapevo già, comunque gli ho cambiato tutti i finali e anche i finali praticamente del modulatore, perché anche quelli lì sono partiti, sicuramente è successo qualcosa, può darsi pure come attaccato il lineare che sia partito, perché l'ho messo al massimo e al massimo dava sui 10 watt e l'entrata massima è 5, quindi può darsi che sia dovuto anche a quel fatto lì che mi sono dimenticato di abbassare prima di attaccare e mi ha fottito. Può darsi pure che ti ha fatto un rientro di RF e ti ha colpito. Vabbè, comunque adesso vediamo se Franco ci sta lavorando, vuol dire che già va bene, sicuramente già si vuole, già torna come era prima. Guarda, con 40 euro io da fuori ho preso il finale Mitsubishi originale. Qua in Italia li vogliono 30 euro l'uno, ma pure con 40 euro ne ho preso 3 finali. Mi stupisce, tutti quanti marchiati. Mi stupisci, già vanno bene, e quelli sono i finali che vanno a quelle radio, non è che devi fare giochi di caruzza, ci vogliono quelli e basta, vabbè. Aspettiamo a zio Franco, poi cosa dice. Franco. Avanti. Ciao Gianni e ciao Claudio. Ciao Massimiliano, Cava. Va bene, stavo dicendo a Claudio che quei finali lì, gli originali, da fuori, dall'Inghilterra, li ho pagati 40 euro. Giandale, anche io per l'S9 li ho pagati poco, tutti e tre, li ho montati e non funzionavano. Ti ricordi qua quando mi ha bruciato quel fulmine che era sceso a casa, che c'era anche tu, mi ha bruciato il lineare, spento, e il baracchino, l'S9. Ah, questi sono originali, Massimiliano, sono gli originali della Parigi, sono marchiati. Anche i miei dell'S9 erano marchiati. Non li ho presi io, non li ho presi di quelli cinesi, non li ho presi dall'Inghilterra. Anche io li ho presi in Gran Bretagna, me li ho fatti arrivare da lì, tutti e tre, capito? Vabbè, comunque, dai, magari già funzionava bene. Vabbè. Allora, gli altri allora, che ho preso, funzionano tutti, perché la portante, i watt e tutto quanto vanno bene. Mancava solo la radio, devo cambiare quelli del modulatore, sono arrivati adesso, speriamo che vadano bene. Vanno bene, non ti preoccupare, abbasso un po' di quella ripetizione già, avanti qua. Lo stavo per dire io, sì. Troppa ripetizione, cioè, va bene. Non io sono col 14 KK. E allora? Non hai lavorato, ma hai detto oggi così? Sì, Claudio ha lavorato, ieri non abbiamo lavorato. Avantieri stava diluviando fino alle 7 di sera di là. Infatti oggi quando siamo rientrati c'era un po' di fanghiglia là, però oggi ha fatto una bella giornata. Bella giornata si è fatta, magnifica, infatti mi sto dedicando a fare un po' di lavoretti, di cose, così mi godo l'estate perché poi c'è troppo caldo. Adesso ho già fatto una bella passata con il gesvogliatore fuori, l'erba è bassa, adesso dovrebbe iniziare a seccare e poi diamo un'altra passata. E boh, almeno se no è un casino. Qui in settimana montiamo il gazebo veranda, lì dove c'è il tavolo fuori, vicino all'arrostimento. E boh, non faccio più nulla. Ehi, andavo a voglia. No, io adesso devo iniziare, fra un po' inizio a imbiancare tutto, camera per camera, ogni sabato e domenica me ne faccio uno o due, e così per l'estate è tutto a posto. io devo dare biancata alla veranda. E appunto quando tocca l'acqua, insomma, poi si formano quelle regline, quelle cose brutte, uno sporco, sembra sporco. È buono la casa noi, non lo manco l'anno, ancora già è pulita. Magari alla prossima le do una rinfrescatina, ma già fa bene così adesso. Non ho saltato fuori, la facciata è fatta, abbiamo fatto l'anno scorso. Andare avanti già. No, io mi devo fare la cucina. La cucina quest'anno, perché le altre camere me le ho fatte l'anno scorso. Devo fare la cucina perché a quello di sopra si è allagata la casa e mi ha fatto entrare umidità e si sta sfogliando la pittura. E io, beh, quello è una cosa normale, quando si bagna. Non si asciugare bene, una volta che sfoglia vuol dire che già asciugato, poi raschi, è una pulizia e le passi sopra con la vernice. Vabbè, prego, non siamo sentiti, ma pensavo che era oggi, invece ieri siamo sentiti, io antico. Ieri, qua, oggi abbiamo dato un bel colpo là. Adesso venerdì sera chiudono la strada dalla Sassari Olbia, la chiudono venerdì e sabato tutto il giorno. Dobbiamo buttare giù un ponte, quindi si passerà dalla strada vecchia. Ah, quel ponte che state facendo nuovo? Quel ponte di, diciamo, di Uschi, di là. E solo quello è rimasto, no? No, è rimasto anche quello prima della 597. Stiamo già preparando la deviazione per quello lì e poi buttiamo in terra anche quello. Gappa gappa. Andare. Va bene. E bisogna già andare. Piavare bisogna fare. Vai già. Quindi adesso Massimiliano a Saccaggia si fa? No, non a Saccaggia, veramente a Saccaggia. Ti ho detto Uschiri. Saccaggia non c'entra nulla. Capito? Tu prendi la strada normale per Olbia, poi al posto di passare nella strada, diciamo, principale per andare a Olbia, devi prendere la strada vecchia di Berchita. Ah, ecco, ho capito. No, pensavo che la deviazione fosse prima, fosse al bivio, là. No, tranquillo. E poi ci sarà un'altra deviazione, però quella è piccolina, che comunque entri da una parte e esci dall'altra, per fare l'altro ponte della 597, che poi sono rimasti solo quelli da buttare giù. E poi si vola. E poi ancora un anno e mezzo e poi arrivare a Olbia come andare al Ghero, la matessi gosso. Sì, perché la strada è più scorrevole, beh, è normale. È tutta rettilineo, già quattro corsie, solo che ti biglia a Currì, hai visto quello del giornale? L'hanno preso a 220 km orari. E anche sulla Budi, a me non mi butti più, a me mi hanno fregato sulla Budi, praticamente ero a 72 km dal limite di 50, mi hanno preso 3 punti della patente più 178 euro di multa. Caspita, è tornato da me, secondo me te ne la prendo, ma. Avanti qua. Ho visto. Ho sentito, ho passo con questa Marcese, poi che Marcese non ho capito, comunque 220 km/h, che ne scemo, cascherioni chi, con tutti gli incroci che vedo. Vabbè, io non è che fossi velocissimo, ma si vedeva, era 72 km/h, sai cosa so, già lo sai, tu guidi, cazzo, lo sai, a 72 km sei fermo, eppure mi hanno messo la multa lo stesso, mi ha detto non le togliamo la patente perché non stava correndo tantissimo, però tre punti la patente più la multa, e c'erano anche ieri, ma c'è, non so, sì, forse hanno chiamato Massimiliano. Io non so, tipo risposta, Tommaso dice, anche ieri c'erano, capito, ieri siamo usciti con lei, siamo andati a farci un giro e praticamente lì all'inizio della Budi c'erano di nuovo, però c'è il cartello, attenzione, praticamente il controllo elettronico della velocità, e ci sono loro con quel laser a 150 km prende quel laser, a 150 metri prende. È un casino. Oh ragazzi, io vi devo lasciare una decina di minuti, al limite se ci siete riprendo dopo. Ok, riprendi qua. Io Massimo, siamo qua. Non c'è problema, siamo qua. Adesso dovrebbero metterci in vista quando mettono le ultime. Per l'altra volta era la macchina era nascosta e la macchina era avanti, capito? Quindi non vede più un cavolo all'inizio perché un po' più avanti della curva, quindi ma ne tutti più malissimo. Io ho rallentato quando li ho visti, però non ce l'ho fatta. Io già rallenti, intanto una volta ti hanno segnalato. Sì, a 150 metri ti segnalano, non ce la fai. Una volta è successo anche un grosso incidente perché questa macchina ha frenato di colpo quando li ha visti, e quello che c'era dietro l'ha tamponata, quello che c'era dietro a quello che l'ha tamponata l'ha tamponato un'altra, e ci sono stati feriti anche, non sai dove, lì nell'incrocio col Platamo. Mi pare avevo sentito qualcosa, forse non mi ricordo. E un'altra volta un ragazzo hai visto che alla piazzetta prima, di fronte alla piazzetta c'era quel contachilometri, praticamente quando passavi ti diceva la velocità che eri tu, no? E praticamente quel ragazzo pensava che fosse sicuramente la macchinetta, quando ha visto di colpo il coso ha sterzato, è sceso nell'altra corsia e ha seguito l'altra macchina, ha fatto un casino lì. Al Bubini a rimane fermo in dire. Aspetta, che sto regolando le stazionali. E io, aspetta, secondo. Eccolo qua. Tutto che attacchiamo il processore. Ehi, ma lo sai perché quella lì cos'è? Quella è la paura, amica. È la paura di Battigisa. Si è fregato da solo, però ha fatto un bel danno. Ha deciso l'altra corsia, ha saltato quel divisore che c'è, quel cordulo, si è avuta l'altra macchina, ha fatto un casino nido. Io l'incidente l'ho visto. Cazzo, c'era gente in terra, eccetera, eccetera. Ci sono stati feriti. Ma... se uno non va tanto forte ce la fa sempre a rallentare, ma se uno è gaminendi più di chissà cosa non scende la macchina, c'è poco da fare, sei a duizetto. Certo, io non stavo, non ero giusto nel limite, però non è che l'ho superato di tanto, per quello che mi hanno tolto solo 3 punti. No, infatti, cioè non è che stavi che ammazzare a nessuno. Ma c'è un bel fiscale, cos'era, un carabinieri o polizia? Polizia municipale. Se vuoi la polizia municipale ci vuole rompere il ballo. C'hanno il laser quelli lì, sono peggio degli altri, c'hanno il laser con la pistola, ti controllano. Quando arrivano le macchine ti controllano con la pistola. Fatemi i pistoleri, porca di dai. Non lasciare vivere la gente senza pace, cazzo, a 70 km stai andando pianissimo, puoi frenare tranquillo, correggere la macchina e tutto. Me l'ha detto, ma lì c'è il limite di 50 e più di 2 km, loro l'hanno regolata a 52, ha detto. Lei ha superato di 20 km, purtroppo le dobbiamo togliere 3 punti alla patente e in più mettere la multa. Sono andato subito, ho da macchina la giubbagata, non c'è che da voi aumenta, se non andate l'ho pagata subito. No, conviene pagarle subito, anche l'aria è ormai in via Roma, come è arrivata a casa la mattina santa l'ho pagata anch'io lì in via Carlo Felice. Se no poi aumenta, capito? Aumenta è un casino, la raddoppiano pure. Comunque la stanno mettendo in via Milano la macchinetta, la mettono entrata in Porto Torres, i vigili di Porto Torres, bisogna stare attenti, bisogna conoscere i posti. Quelli di Porto Torres la mettono al vascolo dove lavavano le macchine prima della prima della, come si chiama, della cantoniera lì, oppure se, più giù, se si mettono vicino prima della rotatoria lì. Sì, anche di fronte a Masala si mettono lì, dove c'è quella, quella stradina che taglia per Serrali Pozzi, a me mi ha ingessato in Chivi, proprio la, la municipale. Hanno messo la multa? Sì, anni fa, capito, sono, stavo scendendo in fretta e mi hai fatto il flash, io ho visto la macchina ferma, però era una macchina civile, capito, invece mio cognato mi ha detto che all'interno di quella macchina c'è la telecamera e ha fatto tutto il flash, vabbè. Infatti l'avevo pagata tanti anni fa, non mi ricordo, 3-4 anni fa, una cosa del genere. C'era ancora mio cognato di servizio negli ultimi anni. No, che quella macchina lì non era legittimo mettere la telecamera, capito? Sì, perché dice che non era la macchina di nessun arma, era una macchina di un privato che loro pagavano per fare questa cosa, però non era giusto, si metteva quella macchina lì anche dove c'era, come si chiama, adesso non mi viene, quello che vende edilizia lì, salendo verso, da sentito verso Sassari, lì si mettevano. Sì, da Maddao, anche lì lo stesso. No, questa era scelta del cognato, con la macchina del comune, la macchina civile del comune che usa l'ufficio tecnico, capito? Non stava più usando l'ufficio tecnico, ma appunto era. E quindi l'hanno adibita per fare questo, l'ha presa al comando della municipale e gli hanno messo questa cosa dentro e la usano per quello. Però era interessata al comune, era dell'ufficio tecnico. E a volte lo vedevo a Costantino, chiaramente a Costantino Cariocca. A Costantino Miglio c'erano due, non me ne ammetto. A Costantino Cariocca lo vedevo spesso con quella macchina, perché lui era dell'ufficio tecnico degli elettricisti. Comunque Claudio, anche i vigili urbani adesso hanno la telecamera attaccata all'ulotto di davanti, perché li ho visti io, le macchine ferme, e sono passato con il cane e ci avevano la telecamera attaccata al vetro. Sì, bisogna stare attenti, soprattutto quelle nuove, quelle elettriche che c'hanno, ne hanno un po' elettriche, c'hanno la telecamera attaccata al vetro, sì. Ti controllano mentre stai camminando e ti contestano l'infrazione in un attimo, capito? Ti contestano l'infrazione in un attimo. Siamo, però a quello che hanno fatto capottare l'altro giorno, Bovaracci si è dovuto prendere la macchina lui, perché se l'ha smarrata tutta e nessuno l'ha trovata quello là, perché non c'erano telecamere nel supermercato. Ha salvato un caputtaccio e si è fuggito. Che sentivo l'ammazzarlo, ma di medio. Era una persona grande, no? Era un signore, avrà avuto 55 anni quello che ha capottato. Ah, io ho sentito due scoppi, pensavo che fosse qualche bombola, ero con Tyson di fronte al portone di casa, ho sentito boom, boom, cazzo, e sai cosa è successo? Sta guardando Gurrene, Gurugane, ha già avuto una macchina ancora con le ruote girate, a ruote all'aria, e ha detto, e questo qui è uscito dalla macchina, meno male non si è fatto male, e ha detto che praticamente se ne era scappata quella donna, era una donna, l'ha vista uno dalla finestra, era con una Meriva, no, un'agila, non una Meriva, un'agila nera. Ma il due, sai chi è? Casino, vabbè. Massimiliano. Se si impegnano già lo trovano, già va a prendersi i pezzi, sicuramente se l'ha smarrata la macchina. Se l'ha preso in pieno, l'ha fatto un caputtare, glielo guidoci. Quindi quando va a prendere i pezzi, fanno il giro di carrozzini e non sale giù più dugare. E io guido, lo so, a voglia. Perché quando succede che ammazzano qualcuno, lo cercano così. O che se sfigato te ne cade il paraurti e c'è la targa attaccata e ti beccano subito, oppure vanno nelle carrozzerie a controllare anche nei negozi di ricambi. È certo che vanno, sì, controllano tutto, ma giusti. Beh, ma non è giusto, cazzo, almeno affidati. Adesso nel primo momento può anche succedere, umanamente possibile, che uno si spaventi e che scappi, però poi ci pesce e torni indietro. Cosa fai? Se ne scappi, te ne vai via. Però non tutti sono, la pensano come noi, già, capite? Io mi ricordo una volta facendo manovra, avevo toccato uno, gli ho lasciato il biglietto, aspetta che mi stai spirando il telefono. Ma perché quello è da persone civili, capito? Può succedere, però si prende la responsabilità, ma succede a tutti, anche nelle migliori famiglie succede, però poi quando fai una cosa del genere ti prende la responsabilità e via, e ciccia. A parte che si racciappano e avanzano fatti giù, perché prima magari avrebbe avuto la responsabilità di pagare la macchina, perché con la macchina non serviva più, si è schiacciato il montante, gli sportelli si sono tutti piegati, il parabrezza si è fasciato completamente, e cioè la macchina non serviva più. Romane non era una macchina nuova, ma comunque se l'è salvata, dai. C'è gente che crepa con queste cose qua, capottando ci rimane. E dopo non avevo voluto andare a ripidare, abbiamo detto chiamiamo l'ambulanza. No, no, non ci vado. Guardi, si faccia controllare, che a colpo caldo, gli ho detto, non sente nulla, poi magari accusa i dolori. Se è arrivata l'ambulanza non ci è voluto salire, boh. Ah, vero? Ernia. E io già, che sono andato a rispondere al telefono e radio. Quello già bene, che tagli avevo. Va bene, riprendi, ma ci vediamo un secondo. Ehi, allora, no, ho mollato, sono con barattendi. Barattendi? Roba buona? No, la roba da mangiare. Ah, quella roba là. Ehi, baratta, baratta, baratta. E il rosmetro lo devo portare domani al lavoro. Quello lì è fatto fuori, speriamo si prenda anche l'altro. Guarda, quello l'hai riprestato a me? Scappa già. Ecco, è un bello strumentino, funziona bene. 50? Yes, facciamo un press. Infatti, ah, va bene. Però ti devo mettere le base. Riprendi già, datemi un secondo, volevo fare una chiamata. Che è caduta la linea, ho capito già, vuole mia figlia, aspetta. Cavale, andrà bene, vera. E beh già. Io ne ho due, vedi, rosmetri. Uno piccolino che uso per la macchina e va benissimo, sempre della ZG, e poi c'è la KP1000 che è rosmetro accordatore e vate, mentre l'ho comprato nuovo perché l'altro mi si è imbarrato. Costava 207 euro su internet, mi ha fatto un bel prezzaccio da fusare, da. L'ho pagato 190. Ma da poco? Sì, l'ho preso sarà due settimane fa. No, ma non li avrei mai spesi io. La cifra per un dettaggino, ci sono dalla Daiva a quel prezzo, buoni già. Cosa devi fare dell'accordatore, la nuova stazionaria? Vabbè, ma ti può sempre servire. E poi questo qui c'ha gli strumenti grandi, a me mi piace di così, illuminato e tutto quanto, è bello, dai. Io l'altro che avevo ce l'avevo un mediani, solo che sicuramente ho fatto un errore io. Non l'ho messo a scala a 1000 quando ho usato 300 watt e mi ha barrato l'alo. Ma ho già, io penso che lo strumento più grande di questo che ho io non ce l'abbia lo ZG. Cazzo, mica chi se manno a virgole. Io ho l'801 HP3 della Daiwa. Non c'ha l'accordatore, ma non me la frutti nuda, non me ne posso nuda l'accordatore. Ros metro watt, metro dagli incrociati, con la luce, col VIP, luce blu dentro, medaglia. Vabbè, io, a me piace questo qua, mi è sempre piaciuto, poi per la stazione che c'ho io, sono tutte radio, tranne quella che mi hai dato tu, le altre sono tutte stazioni base, quindi con la stazione base ci sta bene uno strumento grande, non uno piccolo, capito? E niente, adesso mi dice, coso? Mi vendo il 3.900, tanto non lo sto usando, ma lo vendo. Ah, oh già, ma c'è presente di cosa stiamo parlando? Cioè l'801 è già mai grande quanto l'HP1000, non è piccolino, no? È una bella bestiolina come rosmetro, E vabbè, comunque poi ognuno ha le sue scelte. Lasciatelo stare, cosa ne fai già, che da voi cosa di lui vendi? 30 euro, 120 euro, cazzo costa da 150, 160 nuovo, anche che lo vendi 120, 130 euro, vabbè, cosa fai? Io me l'avevo lasciato, quella è una bella radio. Infatti, non lo so nemmeno che ce l'ho preso, metto così. Ma che andate su tutte stazioni base, capito? Adesso rientrerà il coso, il Galaxy, speriamo che rientri ben messo, che funzioni bene, dai. Me ne metto il Galaxy, poi l'altro più, lo metto sopra il Galaxy e siamo a posto. Vabbè, però... Vabbè, vedi tu, Io invece più che il 3009 mi avrei venduto quel Cobra, quello tutto colorato, vedi, lì sono una 40 canali, Quello magari, quello me l'avrei più fatto fuori più quello io. Ti ha venduto, no, quello lì? Allora vabbè, di lusso. Però 3009 è una bella radio, è già la verità si dica, ma non perché ce l'ho avuto io, però... Il 2009 c'ha un'ottima radio. Lo so. E anche come ricezione è un bel buono. Poi è nuovo, il mio c'ha la scatola e tutto, l'ho comprato da poco, capito? È usato pochissimo, ma non lo sto usando quasi nulla. Non lo uso quasi niente, mi lasci vedere. Sembra ricavare l'attacco. Adesso con una dicetta trattando. Vabbè, diciamo che a casa stazione base va meglio, perché più o meno ce li hai quasi tutte e 220. Però qualche veicolare c'è, cioè, bello lo stesso, là. Io ne ho 5 veicolari, quindi a Puglia. Poi c'ho il Galaxy, stazione base, io sono a posto. Non spendo più soldi in radio già, non conviene più. Io, guarda, il Cobra mi piace perché è anche l'estetica che mi piace di quell'apparecchio, mi piace perché è cromato, è una cosa bella da vedere, specialmente quando è acceso di notte, la luce è rossa, è bello. Io la tua stazione l'ho vista, però secondo me tu radio come quel Cobra, anche se è stazione base, non ce n'è per nessuno, perché quel Cobra se li mette in tasca a tutti quelli che c'hai, non perché te l'ho dato io. Sì, già lo so, però c'è questo qua, che uno ti chiede, me lo dai un controllo, e non puoi dare un controllo perché lo smitter non va bene, capito? E quello è il problema. Se ci fosse qualcuno che sa farlo, io non l'ho mai toccato, ma qualcuno che lo sa fare, regolarmi lo smitter, è quello lì che mi interessa, perché l'apparecchio mi piace molto, però ha questa cosa dello smitter che non mi trivara, perché quando mi chiedono il controllo non lo posso dare, non posso dire una fesseria. Io sinceramente parlando non so neanche come è fatto dentro, perché io quella radio non l'ho mai aperta. So, se tu ti scarichi lo schermo elettrico, lo controllate, al limite lo dici anche a quello che ti sta facendo il Galaxy, che è abbastanza preparato. Io lo guardate, lo vedete qual è il trimmer da toccare. Io non lo so, infatti l'ho sempre lasciato così, perché in poche parole è avaro, cioè è fecco. Però io non lo tocco, a me, cioè quella radio non l'ho mai aperta e l'ho sempre lasciata così. Mi dispiace che non dia il segnale giusto, però chi lo sa fare non c'è problema. Se tu ti scarichi lo schermo elettrico, ti riguardate lo schermo elettrico, di quella radio e lo sapete qual è il trimmer da toccare. No, ma non lo voglio toccare, non lo apro. Ho aperto il Galaxy proprio perché stava facendo, se no quel Galaxy non lo lasciate mai toccato, l'ho aperto solo perché stava facendo difetto, ho pensato che magari il trimmer se ne fossero andati un po', ho pensato quello, però non era quello e alla fine abbiamo capito cos'era, perché poi alla fine non ho sentito più né QRM né nulla, e c'è cosa è successo, no? Che partito tutto qua, e vabbè. Sfiga. Aspetta, scusa, ok, dai. No, niente, già dai. Stava dicendo del Rosmet, domani glielo porto. Andare. E c'è gente ancora che modula in zona di Olbia? No, già, è per un camionista questo qua, capito? Si è fatto l'impianto nel camion. Capito? È un collega di Tommaso, là. Quindi aveva una Mida, ha montato la 2001, però si deve controllare stazionarie perché ha messo anche un lineare, capito, piccolino, però prima si deve fare stazionarie, sennò casino. E non è che può attaccare i lineari così senza controllarsi le stazionali. Prima si deve controllare le stazionali col baracchino normale, poi attacca lineare, perché se c'ha 1.1 gli dà 1.3, 1.3 va bene con lineare, dai. E io avevo 747 e mi dava 1.2, 1.2, 1.3 di stazionali al massimo attaccato. E là va bene, in macchina. Ma io in macchina già, quando ce l'avevo, avevo messo quella Midland X Turbo, una cosa del genere, e c'avevo il B300, no, bugie, eh sì, il B300, e non si muoveva l'ago, capito? Ma proprio si sollevava un pedino, neanche a 1.1 non ci arrivava. No, con 747 sul canale 40 mi dava 1.2, 1.3, però negli altri canali andava bene, dove lo usavamo noi sul canale 10 era 1.1. Sì, a voglia che va bene, che anche 1.2, 1.3 vanno bene, con un centinaio di watt così vanno benissimo, a voglia. Beh, Claudio, finito hai? No, Claudio deve essere che non ha finito. Gava, va bene, questo è sempre... il Galaxy col W3. Ma tu il Galaxy dove l'avevi comprato? Fuori o a Siviglia? Sì, io l'ho preso tramite un amico che modifica la radio, va. Ah, ho capito, vecchi. Acciugavito, a Milano. Già, quell'audio che ti ho mandato, quello lì. Infatti prima di arrivare qua gli ho fatto fare cioè in poche parole ho aggiunto due condensatori sull'alimentazione e poi ho fatto un lavoretto leggero, in poche parole io lo uso con i watt tutti chiusi da 2 watt, quando vai a modulare sale a 30, il picco di modulazione ho fatto fare. A 30 watt, ma non esagerare. No, perché? Perché dovrebbe dare, allora nel libretto c'è scritto praticamente 10 watt da M e 21 in banda laterale. No, ma io sto modulando, io quando schiaccio la portante c'ha 2 watt di portante muta, poi io sto parlando il picco. Ah, ho capito, no, non avevo capito, avevo capito che al minimo mettendolo tutto chiuso dava 2 watt, mettendolo tutto aperto ne dava 20. No, tutto aperto ne dava 25 già, tutto aperto. Il picco è a 35 in banda laterale, ma io non lo tengo, io lo tengo sempre tutto chiuso il power. Tengo così, con 2 watt, c'è cioè il picco di 30 watt, va benissimo. Ecco, infatti c'hai picco da 9, 9, 10, 9, 15. Va bene, però io il power ce l'ho tutto chiuso, guarda, adesso ti faccio una prova, guarda. Adesso ce l'ho tutto aperto e il picco è sempre positivo, vedo, eh? Sì, sì, alla grande. E quanto va così, cambia? Sì, sì, 9.10 fisso, 9.15 modulato, mentre prima di 9 a 9.15. E da te già ha cambiato qualcosa, così c'ho il power tutto aperto. Sì, sì, ha cambiato, sì, ha cambiato anche da me, è più forte, dai. No, vabbè, la radio sicuramente è rimasta uguale, solo il segnale sale leggermente, ma, so... tutto chiuso, io lo lascio sempre tutto chiuso quindi 2 watt. Ma il segreto tutto chiuso era, ti dà più picchi di modulazione quando lo chiudi tutto, lo sai? Se te lo sto dicendo, questo c'ha 2 watt tutto chiuso così e c'ha una trentina di picco di modulazione, no? È nuovo, è come apparecchio? Nuovissimo, nuovissimo. Già va bene allora. Andare. Io Galassi non li bilioassi, se mi prendo un 140 adesso, se non va bene quello lì non li bilioassi Galassi. Sai cosa c'ha di brutto questo? Che me ne sto accorgendo, forse l'ho lasciato un po' troppo spento era. Allora, quando io lo accendo, il frequenzimetro si accende tutto e va sulla banda dove sei. Dopo che sta modulando per qualche 2-3 minuti, il frequenzimetro se ne va a zero, io do un colpetto proprio tipo così sul case e torna tutto normale, non se ne va più. Forse magari, cioè, siccome ho visto che ci sono degli spinotti dove attacca il frequenzimetro, poi qualche filo che tocca non tocca, Magari lo apri, gli metti un po' di spray per contatti, magari ossidato, perché io la prima volta che facevo il difetto avevo messo uno spray per contatti. fatti e si era ripreso bene, andava andato bene per un bel po' di tempo. Tante volte sono usciti dati contatti magari, perché sì che magari si spegne un numero, roba del genere, quello lì è un'altra cosa, ma se si spegne così va a zero, sicuramente c'è qualche falso contatto. Io lo so cos'è Massimiliano, lo so, io quando l'ho ritirato mi sono cercato, ho mandato subito a Daniele, ho detto ma che te l'avevi mai dato? Perché? Sì, ora vorrei che si mette a cavallo, spento, sono attaccato che stava funzionando, è spento. Prova e dunque ti faccio sapere, ero già pronto a restituirlo. Apro la radio e praticamente, proprio se stai attento, c'è la fascia, quella larga, che arriva al frequentimetro, poi va dietro e passa sotto. E non era inserita bene, capito? L'ho inserita bene, ho messo un po' di spray, l'ho inserita bene, non ha più fatto nessun difetto. Il frequentimetro è perfetto, proprio non lampeggia, non fa, non l'ha mai educato, sempre perfetto. Aspetta, a che fascia stai parlando? C'ha uno spinotto, dici, quello che va in quella scatola argentata, quello lì dici? Esatto, tutto da lì parte il frequentimetro. L'ha girato prima un colpetto lì, perché ho visto che il capo arrivava lì, e si è acceso il frequentimetro, poi si torna a curare. Allora ho tolto il coperchietto, c'era la spinetta che non stava, non era entrata bene, capito? Originale, dove messo le sue luci originali, prima c'erano i led, faceva una luce allucinante, prolungava luci, me l'ho tolto i led, sono andato a fusare, ho preso due lampadine sue e le ho rimesse nel suo posto, nella sua sede, capito? La luce adesso è normale come deve essere, senza bugnolucci, capito? E sicuramente non hanno staccato quello lì per passare i fili di questi cazzo di led, capito? Magari anche questo sarà così, come dice Gianni, ma è leggermente diuso, perché io, allora questo ti ripeto, questo lo accende, il frequentimetro si accende, poi quando stiamo modulando a un certo punto se ne va, si spegne tutto, rimane lo zero finale, dove per esempio adesso c'è 75, no magari dove c'è il 5 se ne va a zero, io basta che do proprio un colpetto leggero sul case e si riprende tutto e non si spegne più, rimane sempre bene fisso. E magari adesso quando ne ho voglia lo apro, glielo controllo, le metto un po' di quello spray, sicuramente da quello. Sì, perché sennò il frequentimetro se non funziona non si neanche a colpi, non fa se non funziona. Invece questo una volta dai colpetto è a posto, capito? Non si spegne più, non se ne va più da nessuna parte. E allora è quello il problema. Il mio l'ha fatto quando l'ho comprato, poi non ho visto mai un difetto in quella radio, perfetta, originale tutta, il frequentimetro è giallino e le luci sono normali, senza bugnolucci, bianche, normali, mi rugava le luci, i led, tre led da in uno strumento e tre led nell'altro, tanto Maria ho un coglio, un lampadario Maria, me l'ho tolte e ho messo le sue originali, va molto bene, non prende agli occhi, capito? Messa nella sua sede, col vulcanizzante per entrare bene, la radio uscì, boom, ed è sempre a posto. Chiamava Franco già a che punto era, io che voglio sentire questa radio, ma c'è il telefono. Ascolta, e l'alimentazione della scatoletta da dove l'ha presa? Dall'alimentatore di dentro. Allora. E lo tiene bene? 25 ampere il trasformatore. Sì, allora va bene. Ma 25 ampere che è stato messo o è il suo originale? Non lo so, Massimiliano, è nuovo, c'è anche scritto 25 ampere. Sì, ma dico, il trasformatore originale della radio oppure è stato messo uno di quelli, come ti posso dire, tipo quelli in alluminio, là? No, ho preso l'alimentazione dalla radio, non c'è niente di nulla. Hai visto quando tu apri la radio, al fianco destro c'è la scheda del letto e c'è quella sede lì, quel lamierino, tolta quella scheda e attaccata l'altra, boom, basta, non ho fatto altro. Ho capito, va bene. Quella scheda ecco, l'ho conservata, nel caso dovrei provarlo, ma non avevo dubbio, non bene, c'è un bel forte, sia di radio, di segnale, bene. Sulla T250 segna 100 watt modulati, pieni. Mentre invece se lo attacchi esternamente era di 75-80, dentro me va 100 pieni. La, io non la fregata, adesso quella radio la devi vendere 350 euro se ci hai messo qualcosa dentro. Che il valore del Saturneco è dalle 200 alle 250. E altre... Hai gettato 80 euro di legnaletto, capo la devi vendita la radio, la regali. Bel lavoro mi Massimo Idiano, bel lavoro mi, veramente un bellissimo lavoro, non si vede niente. Se uno ci sta attento pensa che sia la scheda ecco quella, invece qui si vede nel finale. Capito? Bel lavoro, eh. L'interruttore ho usato quello stesso della scheda ecco, per accendere e spegnere, perché la radio può funzionare normale con 10 watt, oppure con lineare abbassando la potenza a 4 watt. Basta. Quindi no, non c'è nessuna, non si vede niente, cose aggiuntive, nulla, un bellissimo lavoro. Un bel lavoro. Gappa. E vabbè, grazie di fare, regalo no, chiama che è tutto libero qua. Lo metto qua e lo proviamo. Ehi già, oramai non lo più. Come anche Massimiliano, il valore si è salito, c'è questa cosa così modificata. C'è una ricezione, non ha niente da invidiare al campo, io a volte quando non entro che ascolto commuto direttamente al Galaxy, perché c'è una ricezione, la favola quella radio, poi in mano laterale, io il fine corse non lo tocco mai e poi mai, dubbia, è sempre centrale, tutti e due pulsantini, l'interno, l'esterno, i puntini bianchi sono tutti e due in verticale, dritti, ovunque risposta, in mano laterale, l'altro giorno stavo ascoltando non so a chi, sempre bello centrato, ma bello, eh. Almeno che siano spostati loro. Vabbè, non anche il mio appena verso destra, ma un pelino verso destra proprio per chiarificarla bene, ma non è niente di che, dai. Adesso non so se per il 750 ho cambiato apparecchio. E dal bip me ne sono accorto, anche io ho cambiato apparecchio. Forse Massimiliano se ne è accorto, non mi ha detto niente, ma stavano col 430. Già me ne sono accorto. Io che pinghi di più. Tu sei uso. Ma tu non te lo vuoi fare radio Massimiliano, minchia. Io ne volta la guarda, c'è il 140, tutte e due sono nuovi, sia quello che ho ritirato a Pinuccio che quello di Valerio. Erano tutte e due miei, tra l'altro, tutte e due miei. Ma a fianco al 430, c'è cioè il 430 sembra uscito dalla fabbrica. Nuovo. Tu ricordi, sì, già usai, sì. Ah, Rusogo, io Rusogo. Quello lì, nuovo, bello Lucio, bello. Sta funzionando anche bene, questo periodo sta funzionando bene. Ultimamente anche questo ogni tanto faceva i capricci. Quando gli ha messo il filtro M sta funzionando bene. Vabbè, a me è andata male due volte, pazienza. No, no, ti vengo da due. Se te ne fa registrato il brecco, avanti chi è? Sempre Claudio, numero uno come Magna Bosco, o come Pino Mucchi, ma c'era, adesso non c'è più, non lo so, vedi tu. Sempre Claudio Spagliero, avanti già. Ehi, ciao Giovanni, ma ti sento pazzo oggi, stai usando di nuovo quell'altra radio, dici così bene, un'altra, buonasera comunque, ben sentito, dai, avanti Massimiliano. Io non sento niente, E in mezzo al QRM. Non è a Platamona, sta scendendo, dove si approva che io va? Ma non ti sentono loro, io ti sento perché sei praticamente di fronte a me, però loro non ti sentono. Avvicinati a Sassari. Adesso l'ho sentito in mezzo al QRM. Io. Va bene Giovanni, avvicinati un po' più a Sassari perché Massimiliano e Gianni ti ascoltano molto poco basso. Già stai arrivando benino qua, 5-6, 5-7, ma la mia zona è diversa da loro, però non stai arrivando basso, bene, capito? Quindi avvicinati un po' di più in modo che ti ascoltino meglio. Avanti già, Gianni ti ha scudato il telefono, riprendi Massimiliano. Va bene, poi io per quella zona Floa che sono un po' negativo. Io la mia zona, diciamo che è zona di mare qua, da Santa Teresa, quella zona lì. Poi zona buona, da se quella zona lì. No, io ho migliorato un po' la zona di mare da qua, sono più aperto. Questo video c'era Tino col camper a Castel Sardo e è arrivato molto molto bene. Mentre la carbonazione non lo sentivo. E quella sembra una brutta zona, invece gira gira qualche punto è migliore di dove eri prima. Guarda, non posso lamentare, ma se mi hai detto bene. Assolutamente, è chiaro che il segnale possa essere un po' calato, ma di pochissimo, però c'ho aperture allucinanti, tutta la zona verso Olbia, tutto, tutto, anche la zona del mare, Alghero arrivo benissimo, stesso segnale di prima, 9.5, 9.10, Porto Torres arrivo molto molto bene, Claudio arrivo 9.10, 9.5, va bene, dai. Non mi posso lamentare, pensavo peggio, l'antenna gliela vista in DM, 3 metri da terra, Emi. Ciamba di muta, andiamo. Questo è il Cobra. Chiavaga. Quindi se non si vede, non si intende. 9.5 si è a 9.30 quasi. No, gli ho detto prima, Cla, che quella radio si mette in tasca tutte le basi che c'ha lui lì. Ah, me lo si intende, lo sai che radio l'ho usata per un bel po' di tempo e ti posso dire che è una signora radio, esteticamente molto molto bella, è peccato che è un veicolare, però è bello massiccio, è chiaro che il Galaxy essendo un base fa più figura all'occhio, però è boh, solo all'occhio, ma lì c'ha quella con i fatti che c'ha, la potenza che ha, la ricezione che ha, già tu non hai avuto mai la possibilità di usarla come l'ho usata io con la radio a livello amatoriale, proprio a livello amatoriale. Io avevo attaccato, avevo la direttiva di 10 metri, la monobanda 320, l'avevo attaccato solo quella e la usavo in 10 metri con microfono normale, in banda laterale mi dava 150-170 watt PEP. Con questa modulazione da paura. Vabbè, dai, magari non li dà così, però io qua adesso adesso vedo un attimino e ti dico quanto mi dà. Va bene, la M dovrebbe dare con la massima potenza penso 80, forse 100 watt pure. No, ne sta dando 30. 30. Ma c'è qualcosa che non va, con la radio, se tu guardi il manuale, aspetta Giovanni, ti faccio entrare io che non ti hanno sentito, aspetta un secondo. Se tu vai a vederti il manuale di quella radio e te lo cerchi su internet, la potenza di quella radio è 100 watt in AM e 150-180 in banda laterale. A me è sempre 30 me la dà. Adesso in bassa potenza sì. No, a bassa potenza me la dà 9 watt. No, ci siamo proprio. Ma ne ho detto, ma non perché già, per carità, è successo qualcosa, ma no, non mi convince. Non mi convince, guarda, io l'avevo misurata con la T230 della Kenwood, Massimiliano ha conosciuto quello strumento, che è uguale a questo, che c'ho la T250, però questo elettronico, quello era manuale. Di scala 200 in banda laterale, lo strumento andava quasi a fondo scala, se fischiavo toccava i 200, sul parlato faceva intorno ai 160-170, in AM, in scala 200 me ne dava quasi 100 in AM, con la potenza alta, con la potenza bassa 30 watt, quindi se a te ti dirà 30 così, che non si sia rotto l'interruttore Massimiliano, che non si è anche rotto quell'interruttore lì, perché deve dare 30 watt a potenza minima, 80-90 watt, anche 100, dipende dall'alimentazione, a potenza massima, in AM. A quanto lo stai alimentando quella radio già? 50 ampere. No, a quanto lo